13강 어휘 bere cenare conoscere vedere leggere mettere prendere rimanere sapere scrivere spegnere guardare vivere acqua aperitivo arancia birra birreria caffè cappuccino cielo colazione cornetto cucchiaio edicola frutta giornale lettera lingua luce mano pranzo rivista settimana spaghetti succo tasca tavola ufficio vino vita zia zucchero destro felice naturale solito durante di solito fuori mai prima di qualche volta 문형 Con che mano scrive lei? Scrivo con la mano destra. Quante lingue conosci? Conosco 3 lingue: l'inglese, il francese e l'italiano. Qualche volta bevi con gli amici la sera? No, non bevo mai. Metti lo zucchero nel caffè? Sì, metto un cucchiaino di zucchero nel caffè. Per quanto tempo rimane in Italia? Ci rimango 3 settimane. Deva. Antonio, a che ora fai colazione? Faccio colazione alle 7. Che cosa prendi a colazione? Prendo un cornetto e un cappuccino. Di solito leggo il Corriere della Sera durante la colazione. Non prendi un succo di frutta? Sì, prendo anche un succo d'arancia qualche volta. Che cosa prendono gli italiani a pranzo? Prima di pranzo prendono un aperitivo, un martini o un Campari. A tavola bevono vino o acqua naturale. Prendono un caffè dopo pranzo. Ceni a casa o fuori? Di solito mangio a casa con gli amici. Dopo cena che cosa fai? Leggo riviste o guardo la TV.